Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di consumi, o meglio, torneremo a parlare di consumi. Oggi un dato di cronaca ci offre lo spunto, il dato Istat sulle vendite al dettaglio, come si chiamano in gergo per definire le vendite appunto relative ai consumi. Il calo è brusco, meno 5%, il dato peggiore dal 1997. Se non ricordo male, e vanno male anche le vendite di generi alimentari. In realtà, però, guardando il mese su mese, cioè marzo rispetto ad aprile, a febbraio, c'è un leggerissimo miglioramento. Tutti questi dati sono però all'ordo dell'inflazione, quindi il meno 5,2 almeno 5,2 andrebbe sommata all'inflazione in un anno, così come è andato anche mese su mese. In realtà questo ci servirà per capire come vanno i consumi al di là così degli slogan un po' politici di chi dice i consumi non vanno perché c'è un pessimismo sulla crisi diffuso dai media dall'altra da una parte, dall'altra di chi dice no, il paese è in ginocchio, la gente non arriva a fine mese. C'è, siamo in campagna elettorale, delle volte anche un po' permanente, ma insomma, al di là di questo, i dati economici a nostra disposizione non sono tutti univoci, sono in chiaroscuro, perché ne parleremo. Il dato ISAE mostra una tenuta sostanziale dei consumi delle famiglie nell'inchiesta che ogni mese l'ISAE compie con un campione di famiglie italiane, chiedendo appunto se risparmiano di più o di meno, se sono riuscite a quadrare il bilancio a fine mese oppure no. Non c'è una situazione lì drammatica, ci sono dati che dimostrano come comunque nel potere d'acquisto complessivamente le difficoltà ci siano, ci sono più però nel centro-nord industrializzato, dove le fabbriche, le imprese manifatturiere hanno dovuto ricorrere spesso alla cassa integrazione, ci sono meno nelle categorie sociali dei lavoratori dipendenti, settore pubblico o settore privato, qualora non vi sia cassa integrazione, perché un po' di potere d'acquisto lo hanno recuperato le cosette buste paga, e soprattutto poi si fa un po' di confusione di tutto un erbo un fascio, perché non è un mistero, ne parleremo, ne ha scritto anche il Sole 24 Ore il lunedì 4 maggio, il costo della vita nel paese è molto molto diverso, non è un mistero per nessuno, e quindi a parità di reddito dire che c'è difficoltà nel potere d'acquisto a Rimini piuttosto che a Treviso, oppure nel fronte opposto a province del Mezzogiorno, ma non solo, anche del centro del paese, beh, sono parametri molto molto diversi e costi molto molto diversi. Il paniere dei prodotti base a Rimini e a Ferrara per una famiglia dello stesso formazione a Rimini e Ferrara costa 4.000 euro di valore medio. Nel sud del paese, ma anche in realtà come Siena, oltre che Perugia, costa a quasi 1.000 euro in meno, e non è poco. 349-238-6666 per intervenire su questo tema all'inizio del programma. Poi parleremo anche chiaramente di borsa. La borsa, dopo lo scivolone di ieri, si avvia a chiudere la settimana tutto sommato in positivo, 0,5 punto percentuale di rialzo in media in Europa, a Milano più 0,80%, di negativo c'è Luxottica -2,80%, Saipem -1,3%, Autogrill -1,2%, come Bulgari e Pirelli. Di positivo invece c'è una pattuglia di titoli guidati da Mondadori più 6,5%, Campari più 3,70%, Atlantia più 3,5% come le CIR, il 2% lo guadagna Prismian, e è l'1,80% UbiBanca, 1,5 punto percentuale di rialzo anche per Telecom, in pregilo più 1,3% come Snam e Intesa San Paolo, ma anche Unicredit. L'euro molto forte, ha toccato quota 1,40 e ce lo aspettavamo, si muove di conseguenza anche il petrolio, perché mai sia che il potere d'acquisto, in questo caso degli sceicchi, dei produttori di petrolio, si possa ridurre. Infatti, come l'euro si rafforza anche il petrolio, che è venduto in dollari, e quindi possiamo dire come il dollaro si indebolisce aumenta il prezzo del petrolio, che infatti è aperto quasi a $62 al barile circa due ore fa. a New York. Ultimo tema che tratteremo nella seconda ora del programma, vista la relazione ieri del presidente di Confindustria Marcegaglia sullo stato economico anche e delle imprese del paese, oggi altri elementi arrivano dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. Da molti sono indicati come le due economie più danneggiate da questa crisi. La Germania ha un grosso problema di export e ha dei grossi problemi suoi. Però di Germania parliamo spesso. Oggi toccheremo la vicenda spagnola da un lato e britannica dall'altro, anche perché la Gran Bretagna è stata messa sotto osservazione da Standard & Poor's, agenzia di rating che dà il voto al debito dei vari paesi, oltre che dei singoli emittenti privati. Potrebbe perdere la AAA, potrebbe perdere il massimo come affidabilità, il voto che ha in questo momento, che è il massimo possibile, come conseguenza appunto della crisi finanziaria soprattutto, ma anche economica, in Gran Bretagna. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. E visto che parlavamo di petrolio, farà piacere sapere agli automobilisti in movimento per il weekend che i rincari della benzina non si fermano e dimostrano sempre questa altissima sensibilità verso l'alto e un po' più di sonnolenza, invece torpore, distrazione quando il prezzo del petrolio cala. Infatti la benzina è tornata a sfiorare 1,30 euro al litro. Agip Etanol a 1,295 euro al litro. L'euro, lo dicevamo, è tornato per la prima volta da gennaio sopra quota 1,40 e continua a restarci, devo dire. Non si sta rafforzando, chi ci scrive, nei confronti invece della sterlina. Resta a 88 pence un euro, per cui sostanzialmente in linea con le ultime settimane. La vicenda Fiat Opel, oggi continuano ad arrivare dalla Germania le fonti più strane. Allora, andiamo con ordine. La Fiat ha smentito le ipotesi presenti ieri che il piano Fiat prevedesse 18.000 esuberi. Ha detto sarà complessivamente inferiore a 10.000 unità, 10.000 persone distribuite in tutta Europa in maniera progressiva nel tempo. La riduzione degli organici prevista dall'offerta Fiat per la Opel, lo ha precisato lo stesso Lingotto. Secondo fonti tedesche, il Rheinische Post scrive che anche l'offerta del gruppo austro-canadese Magna prevederebbe 10.000 esuberi in Europa. Ci sarebbe poi l'interesse di un ultimo arrivato, forse fuori tempo massimo, il gruppo cinese Beijing Automotive Industry Holding, che vorrebbe presentare a questo punto la quarta offerta per Opel, lo ha scritto oggi il Financial Times. Poi c'è stato un botta e risposta, anzi un comunicato ufficiale del governo tedesco. Perché? Perché questa mattina, secondo la radio tedesca Deutschlandfunk, alla radio tedesca Deutschlandfunk, il governatore dell'Assia, Roland Koch, della CDU, ha detto che il piano Fiat ha deluso le aspettative, l'offerta di Magna è più attraente. Anche il governatore della Renania, Beck, si chiama Kurt Beck, ha detto di preferire l'offerta del gruppo Magna. Queste, insomma, indicazioni della politica non vanno sicuramente a favore di Fiat. Però poi il governo tedesco si è sentito in dovere di riferire, lo ha fatto tramite il portavoce Thomas Steg, in una conferenza stampa, che al momento non ci sono favoriti nella gara. Certo, insomma, la maggior parte delle dichiarazioni della politica tedesca vedono con favore Magna Gas e non tanto Fiat. Nel frattempo l'amministrazione di Barack Obama si starebbe preparando a guidare General Motors verso la bancarotta. La prossima settimana infatti scade il termine ultimo, lo scrive il Washington Post, anche perché secondo quanto previsto a quel punto il General Motors riceverebbe un ulteriore prestito federale, cioè degli stati, da parte dell'amministrazione Obama, di altri 30 miliardi di dollari. Però a quel punto, mentre va in bancarotta pilotata, Chapter 11 se capiamo bene, 30 miliardi che andranno a sommarsi o andrebbero a sommarsi ai 15 miliardi già ricevuti dal governo federale americano. Ne parleremo più avanti. Comunque oggi è uscito anche il PIL britannico, l'ultimo che mancava l'appello dell'Europa, e meno 4,1%, con una flessione quindi in linea con le previsioni, meno 2% trimestre sul trimestre. E appunto la Gran Bretagna rischia di perdere la tripla A nel voto di Standard & Poor's. Il rating è già stato tagliato a Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna, non all'Italia. Questa è un'ottima notizia, perché ogni taglio di voto sul nostro debito vuol dire pagare più soldi per l'Italia per farselo rifinanziare, un po' come se peggiora per un privato cittadino se peggiorano le condizioni di credito nei confronti della banca. Funk in tedesco si legge Funk, scusatemi, leggeremo Funk, mi riferisco a Deutschen Funk. British, lo scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, che vedo già belli pimpanti. Andiamo avanti. British Airways ha perso 375 milioni di sterline, il primo rosso dal 2002. Non è un gran periodo per le compagnie aeree, anche Air France KLM ha avuto un rosso importante. La prima volta dal 2002, dicevo, che British Airways va in perdita. Spostandoci all'Italia, poi parleremo delle dichiarazioni del ministro Sacconi sulla sostenibilità e il potere d'acquisto. Oggi sono intervenuti sul fronte pensioni anche Guglielmo Epifani, che ha detto che bisogna completare le riforme avviate dal governo Prodi. Però si è tornati anche sulla polemica banche-imprese, dopo le critiche del ministro Tremonti di questa settimana, e anche comunque i rilievi espressi ieri da Marcegaglia, ha chiesto che le banche continuino a mantenere in vita le imprese, non chiudano i rubinetti. Sentiamo su questo il ministro all'interno Roberto Maroni durante un incontro all'Unione del Commercio di Milano proprio sul rapporto tra piccole e medie imprese e mondo del credito bancario. Il prefetto può intervenire, interviene a sollecitare il riesame delle pratiche, e non è solo il riesame o la richiesta di riesame. La banca fornirà direttamente al cliente la risposta informando il prefetto con cadenza mensile sugli esiti delle istanze. C'è un controllo. Noi vogliamo controllare questa attività. Non è ingerenza nel credito. Però, caro Presidente, non è che il governo italiano mette in sicurezza le banche, dà tanti soldi, dà le garanzie e poi le banche c'hanno il braccino. No, non può essere così. Non sono queste le regole. Il braccino corto delle banche, secondo il ministro Maroni. Faissola, che era appunto il presidente a cui lui si rivolgeva, presidente dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, ha detto: le banche danno il credito a chi lo merita, non a chi lo chiede. Tra l'altro Maroni si riferiva, parlando di prefetti, al centro di monitoraggio organizzati nelle prefetture. Comunque, primo tema, 349-238-6666, come vanno i consumi italiani partendo dal dato di marzo, delle vendite al dettaglio, come vanno i consumi degli italiani. Eh sì, è una settimana che ci occupiamo di salari e consumi, perché abbiamo iniziato con il rapporto OCSE, che ha visto l'Italia al 23° posto al mondo, meno della media quanto potere d'acquisto, e abbiamo continuato poi con altri dati. Oggi meno 5,2% a marzo nel commercio, dato peggiore dal 97, quello delle vendite al dettaglio, quindi 12 anni, negative soprattutto quelle alimentari, meno 5,6%, e qualche segnale di miglioramento, sono sempre dati al lordo dell'inflazione, non tengono conto dell'inflazione, qualche miglioramento nel mese su mese, un più 0,1% al lordo dell'inflazione. Tutti i dati ce li racconta questa scheda. Male, ma non così tanto quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo. È vero, da un lato, che lo scorso marzo i consumi hanno registrato la caduta su base annua più forte dal 1997, ma è altrettanto vero, dall'altro, che mese su mese si è registrato un piccolo progresso. Rispetto allo scorso febbraio, le vendite sono infatti aumentate dello 0,1%, e questo dato, il cosiddetto congiunturale, è particolarmente importante per fotografare i cambiamenti di rotta dell'economia. Non va poi dimenticato che il confronto con il marzo 2008 è falsato dalla presenza della Pasqua, che quest'anno è invece caduta in aprile. L'effetto distorsivo della festività si è fatto sentire soprattutto sugli alimentari, colpiti da uno scivolone del valore delle vendite del 5,6%. Una flessione che diventa ancora più accentuata, tenendo conto dell'aumento dei prezzi legato all'inflazione. Cali particolarmente bruschi hanno riguardato anche scarpe e vestiti, con incassi scesi di oltre il 6% rispetto al marzo 2008. Per i prodotti cosmetici, i libri e le riviste, la flessione è stata invece attorno al 5%. Mentre hanno, per così dire, contenuto le perdite entro il 4%, telefoni e computer, elettrodomestici e articoli di arredamento. Il risultato migliore ha riguardato le vendite di farmaci, comunque in calo del 2%. Tra i diversi punti vendita, a soffrire di più sono stati ancora una volta i piccoli negozi, mentre hanno retto meglio alla crisi super e ipermercati e soprattutto gli hard discount, che vendono prodotti non di marca a prezzi più vantaggiosi. Parla di calo di vendite non drammatico, riferito al dato di marzo il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli, a margine del convegno a cui ha partecipato anche il ministro Maroni, sul rapporto tra credito e piccole e medie imprese. Ascoltiamolo al microfono del nostro Marco Legnana. È un dato che, se viene preso asetticamente, può certamente preoccupare, però è un dato che io non leggo in termini drammatici, perché è un dato che non è depurato dall'effetto Pasqua, in quanto la Pasqua è stata celebrata dopo. Insomma, io penso di poter rispondere così, che secondo noi il peggio è certamente passato e ci auguriamo che quanto prima arrivi il meglio. Sì, Rino Gaetano, anni 70, pieno shock petrolifero, però non siamo molto distanti, non perché il petrolio sia a 63, ma perché insomma sui consumi qualcosa non sta tornando. Però, come dicevo, ci sono due approcci: c'è chi dice che tutto va male, che la cassa integrazione è solo la punta dell'iceberg e di solito è il centro-sinistra, e c'è chi dice, come nel caso del centro-destra, che in realtà il motivo di questa frenata nei consumi sia soprattutto psicologico, dovuto alla percezione di una crisi che invece così drammatica non è. Lo ha ricordato ieri il Presidente del Consiglio durante l'Assemblea di Confindustria, parlando dopo Emma Marcegaglia. Sentiamo Berlusconi. Abbiamo fatto un sondaggio sugli impiegati pubblici, che come sapete sono 3 milioni e mezzo, quindi è una fetta importante della nostra popolazione. 3 milioni e mezzo, per cui con le famiglie sono circa 10 o più milioni sui 59 milioni di italiani. Gli impiegati pubblici non hanno il rischio di perdere il lavoro. Hanno avuto un incremento delle loro entrate del 3,6% quest'anno rispetto all'anno scorso. Hanno goduto e godono anche loro di quell'abbattimento dei prezzi dovuto alla diminuzione del costo del barile, che si calcola in 2.000-2.500 euro per il 2009, nel 2009 per una famiglia di 3-4 persone. Quindi non avrebbero nessun motivo per cambiare il loro stile di vita e per cambiare le loro abitudini di acquisto. Abbiamo domandato quanti di voi avevano l'intenzione di cambiare la propria autovettura nel 2009. Hanno risposto, e a quelli che hanno risposto di avere questa intenzione abbiamo chiesto: ma l'avete fatto o pensate di farlo? Il 76% ci ha risposto no, abbiamo cambiato atteggiamento e decisione perché c'è la crisi. Quindi è stata la paura di qualche cosa che non li può toccare direttamente che li ha fatti astenere dal mantenere una loro decisione di acquisto e di consumo. E al di là della politica, le due variabili sicuramente sono presenti. Giro la domanda ai nostri ospiti di oggi, il professor Mario Vavassori, che insegna gestione aziendale al Politecnico di Milano, presidente dell'ODM Consulting, che fa il rapporto trimestrale sull'andamento dei salari delle varie categorie, dirigenti, dipendenti, quadri, operai. Buonasera, professore. Sì, buonasera a voi. Buonasera. E buonasera anche al professor Luca Ricolfi, che è docente di analisi dei dati all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buonasera, professor Ricolfi. Buonasera. Allora, Ricolfi, poi abbiamo lo stacco per il metro, pubblicità, poi ragioniamo in maniera anche più articolata. Però, visto che lei, professor Ricolfi, ha sempre rotto gli stereotipi, i luoghi comuni del centro-sinistra e anche del centro-destra, una incapacità delle volte di leggere la realtà, quanto c'è di così demagogico, populistico in un lato e nell'altro? C'è chi dice la crisi è solo psicologica, e insomma la cassa integrazione è ai massimi dal 1993, ma dall'altra parte sentiamo dire tu va tutto male, il paese è in ginocchio, e poi nei consumi, vedi i dati dell'ISAE che poi citerò, nel risparmio questo non si vede in maniera così massiccia. Prego. Ma io penso che abbiano torto tutti e due, perché sicuramente il centro-sinistra amplifica la gravità della crisi propagandisticamente, non hanno assolutamente l'abitudine di guardare i dati, quindi guardassero i dati ISAE negli ultimi 6-7 mesi avrebbero detto cose del tutto diverse da quelle che hanno detto. Però penso che anche Berlusconi stia facendo propaganda, perché c'è un aspetto che a mio parere non si considera tanto, e cioè che è vero che la psicologia è fondamentale, probabilmente questa indagine di cui parla Berlusconi dice delle cose vere, però la psicologia dipende anche dalle decisioni del governo. Ora, in questo momento il punto veramente debole del nostro sistema dal punto di vista della domanda aggregata è dato da coloro che hanno perso il lavoro, che non sono ancora tantissimi ma aumenteranno ancora un po', e da coloro che, giusto o sbagliato che sia, temono di perderlo. Persino coloro che stanno nella pubblica amministrazione temono di perdere il lavoro, pensi quelli che stanno nell'industria, nel privato, e pensi nell'ambito di quelli che stanno nel privato chi sta in una piccola impresa senza ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera. Allora, un governo che si rende conto che la psicologia è importante dovrebbe fare qualcosa per far cambiare atteggiamento psicologico, per esempio facendo quella benedetta riforma degli ammortizzatori sociali di cui si parla da 15 anni, cioè se la gente sapesse che automaticamente se perde il lavoro ha degli ammortizzatori sociali robusti, indipendentemente dal settore produttivo in cui lavora, dalla classe dimensionale dell'impresa, eccetera, probabilmente avrebbe un atteggiamento meno prudente. Quindi io non mi ritrovo né con l'analisi di Berlusconi né con quella della sinistra. Allora, questa è la risposta del Ricolfi orfano, diciamo, di padri, e a noi fa piacere, nel senso che ci occupiamo dei numeri. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei sentire anche dal professor Vassori come si sono mossi gli stipendi degli italiani, e poi tornare su un ragionamento che faceva Luca Ricolfi qualche settimana fa, cioè attenzione che qua non si dice mai, anche se il segreto di Pulcinella lo ha scritto il Sole 24 Ore il 4 maggio, che poi il costo della vita in questo paese è drammaticamente diverso. Il costo dei servizi, della spesa quotidiana nelle regioni del centro-sud è più basso delle regioni del centro-nord, per cui non si può prendere solo come parametro la busta paga. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stiamo ragionando di consumi, lo dico che si fosse messo in collegamento, in un giorno in cui l'euro ha rialzato la testa, 1,40-20 in questo momento, e chiaramente anche il petrolio, perché si vende in dollari, quindi se il dollaro si indebolisce i paesi produttori vogliono recuperare potere d'acquisto, il petrolio viaggia verso i $62 al barile, la benzina subito si è adeguata a un euro, vicinissima a 1,3 euro. Dato sui consumi di oggi fotografato dall'evento al dettaglio, meno 5%, molto male soprattutto i generi alimentari, un leggerissimo miglioramento all'ordo dell'inflazione a marzo rispetto a febbraio, il meno 5% è anno su anno ed è in valore, non in volumi. molti messaggi che arrivano, volete anche che si parli del potere d'acquisto tra le diverse parti del paese, adesso ci arriveremo. Volete, vi è piaciuto il riferimento agli anni 70 dello shock petrolifero? Vabbè, Rino Gaetano. Spendi e vendi. Professor Vassori, a livello di numeri, le retribuzioni degli italiani come si sono mosse in questi ultimi mesi? Perché la vulgata vuole che il potere d'acquisto dei dipendenti privati o pubblici, appunto, si sia incrementato. I mutui costano meno, la benzina costava un po' meno, insomma, se tu non sei in cassa integrazione hai un po' più di potere d'acquisto, senti meno la crisi. Io sono rimasto molto sorpreso dal dato dell'OCSE, nel senso che ci ha veramente messo in una posizione dopo la Grecia, bassa, dopo tutto. Molto bassa. In realtà lo stipendio, ci sono degli elementi quantitativi e degli elementi qualitativi, poi qualcuno li chiama psicologici, eccetera. Comunque, per quanto riguarda la quantità di soldi che uno mette in tasca, oggi siamo a questa situazione. 4.300 euro netti al mese un dirigente. 2.450 euro al mese netti un quadro, 1.400 euro netti al mese un impiegato e 1.200 un operaio. Questa è la fotografia di oggi da un punto di vista di quantità di soldi che alla fine del mese coloro che lavorano e lavorano tutto il mese portano a casa. Ovviamente va aggiunto la parte di lavoratori che sono o in cassa integrazione, quindi portano a casa il 30, il 40% in meno, e coloro che sono con contratti di solidarietà, ad esempio, che prendono il 10, il 15, il 20% in meno. Quindi questa è la situazione, diciamo, da un punto di vista quantitativo. Ma è vero che c'è stato un recupero, perché il dirigente è un dirigente, spesso appunto ha un contratto diverso, della parte salariata, nel senso che appunto la crisi si dice ha colpito molto chi i manager, chi aveva bonus, ma o il commercio, le partite IVA, cioè il mondo del variabile, chi aveva un reddito fisso tutto sommato e per, diciamo, in maniera relativa, ma guadagna potere d'acquisto. Certamente chi aveva una retribuzione in prevalenza variabile ci ha rimesso molto molto di più, ma va tenuto conto anche del fatto che tutti i nostri dipendenti oggi in Italia avevano nel passato, solo un anno fa, una quota variabile che è, non dico scomparsa, ma comunque è diminuita molto, quindi in realtà sì, è vero che le partite IVA, che altri i lavoratori autonomi forse hanno subito una decurtazione maggiore più evidente, ma anche chi è a lavoro dipendente a busta paga tutti i mesi comunque si vede magari lo stesso stipendio, con un'inflazione che ogni tanto rialza la testa e con la necessità di dover risparmiare un po' in questo momento, perché non è, io credo, vero che siamo completamente fuori da una situazione. Ma che fuori? Ma fuori, siamo fuori se lo diciamo. Esatto. Siamo fuori, come dice Tremonti, abbiamo rischiato l'apocalisse e l'abbiamo evitata. Questo è come sì. Un malato terminale, a un malato che dopo la chemioterapia riesce a rimettere in vita, digli: beh, adesso stai bene, un attimo di pazienza. Il recupero hai rischiato molto moltissimo lungo, e il recupero lento. Va bene. Esatto. No, c'è un aspetto qualitativo che io credo sia molto importante. Noi abbiamo fatto proprio in questi giorni un'analisi, una nostra indagine che tra l'altro è ancora alla quale si può ancora partecipare andando su indicedifiducia.it, che ha rilevato questo nei lavoratori dipendenti, che i lavoratori dipendenti hanno molta fiducia nel lavoro e nella loro azienda, almeno quelli che sono riusciti a rimanere dentro, hanno pochissima fiducia su chi li rappresenta, in particolare ad esempio i sindacati da una parte, ma anche le associazioni professionali e imprenditoriali, hanno ancora meno fiducia nelle loro capacità in questo momento. ripongono tutta la loro fiducia nell'azienda e nel lavoro. Diciamo che sono abbarbicati a questo valore. Questo è un elemento qualitativo, secondo me, molto importante, certo, che rafforza anche le cose che dicevamo prima, di costruire un sistema di salvataggio comunque per chi esce da questa condizione. Quello che diceva il professore Colfi. Professore Colfi, trago alcuni spunti dagli sms che arrivano al 349-238-6666 e poi mi ricollego anche al suo pezzo, al suo articolo di alcuni giorni fa. Da un lato, perché non si tiene mai conto del fatto che poi il costo della vita, ripeto, Sole 24 Ore di lunedì 4 maggio, da Rimini a 4.100 euro a, diciamo, Caserta, Bari, Potenza, di cui se ne spendono 3.000, per la stessa famiglia ci sono 1.000 euro che ballano di differenza. Una cosa che scrivono molti ascoltatori è: ma attenzione, perché non è che uno o è dipendente pubblico o è privato, ci puoi avere la moglie che è dipendente pubblico, tu lavorare come partita IVA, e quindi magari le due cose sono un po' più legate, noi li vediamo sempre come universi così distanti. Dall'altro, professor Ricolfi, perché secondo lei poi l'indice ISAE sulle famiglie mostra un atteggiamento stazionario, risparmiano più o meno quello che risparmiavano prima, non ci sono drammi in corso? Perché la realtà, perché per quanto si dica e si scriva, il numero di persone che hanno perso il lavoro o che hanno dovuto ridurre l'orario è ancora abbastanza contenuto, per cui l'effetto aggregato è molto ridotto. Teniamo anche conto che quelli che hanno perso di più sono i ceti alti, ovviamente, cioè quelli che avevano attività, azioni, obbligazioni, attività finanziarie. E in questi ceti la relazione fra consumo, reddito e patrimonio è molto debole, cioè il lusso continua a tirare in questo periodo, perché non è che chi ha perso in borsa non va più al ristorante perché ha perso in borsa, aspetterà di guadagnare un'altra volta. Quindi alla fine il segmento che incide a livello macroeconomico è un piccolo segmento di 500, 600, 700 mila persone su un'occupazione che col nero arriva sui 25 milioni di persone. Sono questi gli ordini di grandezza, e questo ovviamente non è che può da solo determinare un crollo del numero di persone che risparmiano o un incremento vertiginoso del numero di famiglie in difficoltà. I dati ISAE danno, credo ancora oggi, sostanzialmente una stazionarietà, perché riflettono la famiglia media. I giornali si occupano solo dei casi estremi, come sempre, e quindi noi parliamo di crisi in un modo drammatizzante. Cioè, quello che poi c'è un'altra componente che si riflette nei consumi nominali, ed è che effettivamente c'è una certa prudenza dei consumatori, per cui quel poco che si avverte è una riduzione dei consumi che però non si ripercuote nei bilanci familiari. Cioè, mi spiego, può succedere che il numero di famiglie in difficoltà resta costante, però le famiglie che guadagnano come prima, che hanno gli stessi problemi a quadrare il bilancio, comunque consumano di meno perché abbiamo sviluppato un atteggiamento di prudenza. Cioè, io semmai sarei molto preoccupato di quello che succederà fra 6 mesi. Vabbè, sì. Perché fra 6 mesi noi possiamo avere una situazione nella quale aumenteranno ulteriormente le persone che hanno perso il lavoro, che sono in cassa integrazione, eccetera, probabilmente andiamo verso 1 milione o più di 1 milione, quindi comincerà ad avere un certo impatto. Poi cosa succederà? Che improvvisamente, se usciamo dalla crisi, ci sarà una svolta, la gente smetterà di aver paura e comincerà a consumare di nuovo. A quel punto riparte l'inflazione, perché ci sono un sacco di quattrini che in questo momento sono cautelativamente messi sotto il materasso, dico per dire, e che sono pronti ad essere spesi. Semmai io mi preoccuperei di quello che succederà a fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, quando i prezzi ripartiranno, ci sarà un'inflazione abbastanza veloce probabilmente. Beh, lo sappiamo già cosa succederà, torneranno a serie di tassi di interesse. Io le chiedo ancora un paio di minuti di pazienza ai miei ospiti, perché ho l'ultima domanda, che è quella più delicata, sui tabù. C'è un tabù nel paese, non dico solo nella sinistra, nel sindacato, quello di parlare del diverso potere d'acquisto a parità di salario tra la Lombardia e l'Emilia e la Calabria e la Sicilia. Ogni volta che si tocca l'argomento si viene accusati di voler fare le gabbie salariali, di voler spaccare in due paesi. Insomma, in sostanza È chiaro che, come scrivono molti ascoltatori, guadagnare 2.500 euro come dipendente della Telecom a Firenze non è la stessa cosa che guadagnarli a Catania e ancor meno guadagnarli a Milano. Lo sappiamo tutti, però è un tabù. Di nuovo in diretta, la borsa, c'è sempre qualcuno che... La borsa, allora neanche fosse George Soros all'ascolto. Arriveremo alla borsa, più 0,5, l'abbiamo detto in apertura, oggi la giornata è tranquilla. Mondadori più 6,3, Atlantia più 3,6, adesso ci arriviamo. Vorrei concludere il tema sui consumi. Allora, professor Vassori, a parte il fatto che non le dico cosa hanno scatenato le sue medie sugli stipendi dei dipendenti, dei dirigenti, degli operai, perché non ci si ritrova nessuno, chiaramente, da parte bassa non ci si ritrova. È una media. Da parte bassa o da parte alta non si ritrova? No, cioè è troppo alto quello che le ha detto. Molti scrivono che mai visti 1.200. C'è uno che scrive: il mio capo dirigente non li prende mica 4.500 euro. Non so quanto il suo capo sia sincero con lei, onestamente, però. Allora, professor Vassori, e poi Ricolfi, rapidamente. Perché è un tabù parlare di potere d'acquisto nel paese, sapendo che l'Italia è un paese lungo, lunghissimo, più lungo di quanto anche la geografia non ci abbia già insegnato? Ma c'è una storia molto lunga su questo tema che convince tutti gli operatori a non parlarne. In realtà, secondo me, è il momento di parlarne. Nei prossimi mesi, soprattutto di fronte all'incremento che avrà l'inflazione nell'arco dei prossimi 6-8 mesi, bisognerà mettere mano in modo significativo agli stipendi, ma sarebbe un grande errore metterci mano in modo indifferenziato. Bisogna fare le differenze, le dovute differenze. La prima riguarda un forte collegamento con i risultati, quindi obiettivi, incentivazione, eccetera. E la seconda è sulle condizioni, diciamo, socio-economiche, soprattutto economiche del luogo in cui si lavora. I tecnici e gli esperti, secondo me, dovranno darsi da fare in questi prossimi mesi per trovare una soluzione a questo problema, che è un problema alla fine non di uguaglianza, che crea uguaglianza, ma crea disparità. Certo. Mi dica solo una battuta, sì o no, nelle vostre rilevazioni sugli stipendi degli italiani vedete qualche differenza, almeno nel mondo privato, per cui l'azienda può fare dice attenzione, tu vuoi fare il dirigente o il quadro lì, sapendo che costa la vita, ti do un po' di meno, di fatto, anche se non si può, diciamo, di... No, nei fatti è così, nei fatti c'è una differenza, c'è un differenziale, ad esempio, tra nord e sud, che è intorno ai 12-15 punti. 12-15%. Esatto. Là dove ci può, cioè nei contratti di dirigente, di collaborazione, insomma, nei chiaro. Contratti privati. Insomma. I contratti privati, certo. E non quelli regolati dal contratto nazionale. Pubblico, soprattutto. Esatto. Allora, professor Ricolfi, sul tabù, da un lato, perché questo tabù non si riesce a rompere... E dall'altro vorrei tornare anche per chiudere sul punto del forse fare la distinzione tra pubblico e privato, quando in una famiglia ci sono tutti e due, magari c'è il figlio precario, tu il lavoro lo tieni anche, però pensi che tuo figlio lo perderà e quindi comunque non spendi. Beh, quest'ultimo discorso è un discorso, diciamo, di compensazioni intrafamiliari, cioè l'Italia è un paese che si regge anche su una bricolage di occupazioni, semi-occupazioni, occupazioni regolari, irregolari, e questo è uno stabilizzatore sociale spontaneo, no? Quindi questa è anche la ragione per cui certi conflitti non si riescono a innescare, anche se sarebbero virtuosi probabilmente. Cioè quando qualsiasi cosa si pensi, ad esempio, di severo nei confronti della pubblica amministrazione, si scontra col fatto che non ci sono solo i dipendenti della pubblica amministrazione, ma tutti i lavoratori che hanno dei parenti nella pubblica amministrazione, che hanno dei vantaggi dalla pubblica amministrazione. Quindi questo è un pezzo del puzzle della modernizzazione dell'Italia. Cioè, in questa molteplicità di ruoli in cui sono coinvolti i membri di una famiglia blocca qualsiasi processo di cambiamento. Per quanto riguarda il tabù, vabbè, è un tabù, è come parlare male di Garibaldi, cioè se lei parla di gabbie salariali, di potere di acquisto più alto al sud, eccetera, viene automaticamente accusato di avercela con i meridionali e quindi, essendo un paese conformista, non se ne può parlare. Però io devo dire questo, che io stesso, che mi sono occupato della cosa, che ho fatto dei calcoli, ho notato questo vantaggio del mezzogiorno, sono abbastanza contrario alle gabbie salariali. No, ma nessuno, prego. Spiego perché. Ci sono due argomenti molto forti, a mio parere. Uno, che se vogliamo parlare di differenze di potere di acquisto, c'è un'altra dicotomia di cui non si può tenere conto con le gabbie salariali, che è la differenza fra città e campagna o provincia, eccetera. Il secondo? Il secondo è che se abbiamo un problema di giustizia, è molto più logico muoversi in un'altra direzione, cioè quello del recupero di evasione fiscale. Vabbè, abbiamo fatto la puntata, no, d'accordissimo, abbiamo fatto la puntata ieri, è vero. Questo non lo sapevo. È giustissimo, non è che c'è solo il problema del potere d'acquisto, del costo della vita, c'è il problema di chi dichiara 15.000 euro l'anno, tutte le categorie che abbiamo ricordato, non le voglio fare elenco, se no si arrabbiano di nuovo, così si becca anche gli aiuti, e di questi solo 50.000 poveri italiani che guadagnano più di 200.000 euro lordi l'anno. Grazie a Luca Ricolfi, a Mario Vavassori, e questo è tutto per adesso per quello che riguarda i consumi. Le 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Chiuso il nostro approfondimento sul consumo, potere d'acquisto, alla luce dei dati di oggi dell'Istat, meno 5% le vendite al dettaglio, molto male soprattutto quelle alimentari, marzo 2009 su marzo 2008. Un paio di rapidi aggiornamenti e poi la borsa. Allora, oggi è uscita anche la congiuntura flash del Centro di Confindustria, se ne è occupato il nostro GR Extra Large, avete sentito le dichiarazioni del direttore del Centro Studi Luca Paolazzi. In sostanza aumenta ancora la cassa integrazione, che va ai massimi dal 1993, questo per quello che riguarda i primi 4 mesi del 2009, però dice sempre il Centro Studi di Confindustria che i germogli della ripresa si stanno consolidando e sta rallentando la caduta del PIL italiano in questo trimestre, quindi aprile, maggio, giugno, e il punto di svolta, sempre secondo il Centro Studi Confindustria, dovrebbe aversi in estate. Una notizia appena arrivata invece riguarda General Motors. I creditori hanno bocciato l'offerta, gli obbligazionisti di General Motors hanno bocciato l'offerta di convertire il debito di General Motors, avendo in cambio il 10% della nuova società ristrutturata. È un elemento molto importante, perché se il 90% di tutti i creditori non aderirà al progetto entro il 26 maggio, quindi ci siamo, la casa automobilistica sarà comunque costretta a chiedere all'amministrazione controllata il fallimento pilotato, il Chapter 11 come si chiama in gergo. La borsa oggi è la chiusura di settimana dopo il calo di ieri, più 0,6 S&P MIB, più 0,6 anche il MIBTEL, più 0,3 Parigi e anche Francoforte, Londra più 0,4, l'America guadagna lo 0,7. La notizia più forte oggi sui mercati, secondo me, riguarda l'euro, che è stabilmente a quota 1,40 e ha portato il petrolio stabilmente verso i $62 al barile. Comunque, come sempre con Radio Core, il Sole 24 Ore, il commento della giornata di borsa. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Seduta tranquilla, mi sembra di poter dire. In generale, in evidenza oggi Mondadori più 6,3, Atlantia più 3,5, Campari più 3,5, Le Cir più 2,7, come UbiBanca, Unipol più 1,80, Prismian più 1,7, Impregilo più 1,5, ST Microelectronics più 1,3 come Snam, ma anche Telecom. Enel guadagna l'1%, Intesa lo 0,90. Chi perde? Luxottica il 3%, Saipem l'1,5%, Bulgari pure, Pirelli meno 1,2%, Autogrill meno 1%, la Popolare di Milano e Mediaset meno 0,80%. Mondadori. Sì, Mondadori oggi ha guadagnato il 6,28%. Ha guadagnato, diciamo, come la maggior parte dei titoli editoriali che continuano una settimana all'insegna degli acquisti. Oltre a Mondadori, oggi abbiamo avuto il boom dell'Espresso, che ha guadagnato il 20,91%. L'Espresso era stato un pochettino penalizzato nelle scorse sedute, non aveva seguito il boom di RCS, invece oggi ha guadagnato molto, sostenuto da un report di Bank of America in cui appunto gli analisti della banca americana hanno alzato la raccomandazione da sell a buy, quindi da vendere ad acquistare, e il target price addirittura da 0,5 euro a 1,6 euro. Citavi l'Espresso, appunto più 20%, a questo punto diamo anche i migliori e peggiori in assoluto, perché Socoterm guadagna il 14%, il gruppo Coin il 12,5%, e poi Caltagirone Editore, un altro gruppo editoriale, più 9,7%, il peggiore Banca Generali meno 4,4%, CDC Point meno 7,4%. Andiamo sui titoli più grossi invece. Telecom Italia alla fine ha guadagnato, è tornata a quasi a un euro per azione, più 1,3%, ma non si placcano dentro Telecom i dubbi sul piano industriale. Sì, oggi non si placcano i dubbi né sul piano industriale né sul futuro, certo, di Telco, di eventuali fusioni fra Telecom Italia e Telefonica. Oggi, diciamo, ad accendere un po' la miccia è stata questo intervento di Marco Fossati, che detiene il 5% della società e che è, diciamo, il socio più importante al di fuori di Telco, e che ha ribadito che Telecom Italia ha bisogno di un progetto industriale di lungo periodo, quindi una nuova, diciamo, critica nemmeno particolarmente velata al progetto attuale, e ha anche sostenuto, come ha fatto in altre occasioni, che una fusione con Telefonica sarebbe l'alternativa migliore per Telecom Italia. Questo ovviamente in questa fase riaccende i riflettori sul titolo, e anche oggi, insomma, si è mosso al rialzo, ha guadagnato l'1,28%. In una battuta, novità su Luxottica, che perde sensibilmente più degli altri, meno 3%. Non ci sono ragioni particolari, se non il fatto che, come accennavi tu all'inizio, c'è questa questione dell'euro che si è molto rafforzato, per cui se andiamo a vedere un po' tutti i titoli particolarmente esposti con l'export, infatti, sì, hanno perso, meno 2,99 Luxottica, ma anche meno 1,40 Bulgari, la stessa Autogrill, che ha una quota consistente di fatturato che dipende dagli Stati Uniti, ha ceduto lo 0,98%. Grazie, buon fine settimana a te, ai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Ultima parte di Focus Economia. Allora, la Gran Bretagna, già si è saputo che rischia di perdere il rating di AAA, che è il livello più alto che dà Standard & Poor's al debito di un paese sovrano, e oggi è uscito anche il dato sul PIL britannico, meno 4,1% su base annua e meno 2% quasi rispetto al trimestre precedente, con British Airways tra l'altro che vede il primo rosso dal 2002, 375 milioni di sterline. Nel frattempo anche la Spagna ha registrato un PIL il più pesante dal 1970, da quando esiste la serie statistica. I dati peggiori per la Spagna, che è in recessione economica da un punto di vista tecnico dall'autunno del 2008 e ha un record poco invidiabile quanto al numero di disoccupati in Europa, oltre 3 milioni e 600 mila. Quello che però sorprende di più è vedere che addirittura Standard & Poor's rimette sotto osservazione il voto della Gran Bretagna. Gran Bretagna, già come ricordavamo, colpita per quello che riguarda il governo Brown dalle note spese dei ministri. Brown ha presentato due volte il conto dell'impianto idraulico, e poi insomma il ministro degli esteri Miliband si è fatto rimborsare 30.000 sterline per una proprietà. Poi ci sono anche spese molto molto minori. Vabbè, ma questo riguarda più la cronaca del dibattito politico. Vorrei capire a questo punto se veramente la Gran Bretagna rischi un declassamento. Lo vorrei capire con Leonardo Maisano, che è corrispondente del Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Mentre ringrazio anche Michele Calcaterra per averci raggiunto in collegamento, è il corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid. Buonasera anche a te, Michele. Buonasera. Allora Leonardo, c'è il rischio vero e proprio che la Gran Bretagna, dopo il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia e la Spagna, diventi il quinto paese europeo a subire un taglio nel voto sul debito? Sì, c'è. secondo Standard & Poor's questa prospettiva è più che realistica, dipende da quello che questo governo o il prossimo governo saranno in grado, il prossimo governo perché entro 10 mesi l'Inghilterra dovrà comunque andare alle elezioni, riuscirà a fare. La prospettiva disegnata da Standard & Poor's si basa sulla previsione che il debito arrivi al 100% del PIL, o comunque molto vicino al 100%. Incredibile, perché noi ci viviamo da 20, 30 anni con un debito che è più del PIL, però gli inglesi, per gli inglesi insomma sono, è la prima volta. Per gli inglesi è quasi raddoppiato, sostanzialmente raddoppiato, rischia di raddoppiare secondo le previsioni Standard & Poor's nel giro di un anno e mezzo. Questo è dovuto, diciamo, alla crisi finanziaria in senso stretto o all'intervento da 130 a 140 miliardi, se vado a memoria, fatto dall'amministrazione Brown per mettere a protezione, mettere in garanzia il mondo bancario, ma non solo? Beh, le due cose. La garanzia del mondo bancario senz'altro è costata molto, il calo del gettito determinato dal crollo dei servizi finanziari e comunque della recessione in generale ha fatto la sua parte, quindi la coazione di queste due cose su un manifatturiero che è tradizionalmente debole in Inghilterra e che quindi è stato ulteriormente indebolito dalla crisi del credito per la mancanza di credito appunto sui mercati hanno determinato poi questo circolo che si è avvitato con una rapidità sorprendente anche per lo stesso governo, nel senso che Standard & Poor's fa delle previsioni che sono pessimistiche ovviamente rispetto alle previsioni di Brown, previsioni di Darling di qualche mese fa, è andato oltre nella convinzione che, diciamo così, i calcoli del cancelliere dello scacchiere non siano corretti. Un'ultima domanda, Leonardo Maisano, ma le iniziative che sta mettendo in campo Brown è stato molto elogiato per come ha risposto tempestivamente alla crisi, anzi ha guadagnato consenso nell'opinione pubblica britannica nei primi mesi, quelli peggiori, quelli più pericolosi della crisi finanziaria. Si è un po' più defilato sulle risposte, diciamo, di medio termine? Sì, perché cioè, come dire, l'urgenza politica, come vi dico, tra 10 mesi va alle urne, quindi si è trovato a dover, come dire, gestire un'emergenza senza avere mano libera. Per questo ha finito per fare delle operazioni abbastanza demagogiche, come la revisione dell'aliquota fiscale marginale fino al 50%, che per l'Inghilterra è un fatto assolutamente senza precedenti nella storia degli ultimi 20 anni, perché la soglia del 40% è stata introdotta dalla Thatcher e mantenuta da Blair e anche accettata da Brown negli impegni elettorali. Quindi ha sfondato questa cosa che poi porterà un gettito relativo, però va a riconquistare quelle fasce di elettori tradizionalmente laburisti che si sono sentiti, come dire, traditi dal New Labour, diciamo, la versione più socialdemocratica e più, diciamo così, neoconservatrice in un certo senso appunto del partito laburista, e che quindi chiedevano misure più tradizionalmente nel solco della tradizione socialista, e questa è la risposta che Brown ha fatto per esigenze sostanzialmente elettorali. E quindi è tornato sulla vecchia tradizione del Labour di tassare, diciamo, i redditi più alti, meno Blair e più vecchio Labour. C'è una cosa che accomuna Gran Bretagna e Spagna in Europa, sono i due paesi dove la crisi del mondo del settore immobiliare si è fatta più sentire. Della Gran Bretagna abbiamo capito che poi in realtà c'è tutto l'avvitamento del mondo bancario, di un'economia molto sbilanciata sui servizi e con un peso molto basso dell'industria manifatturiera. Michele Calcaterra, vorrei capire se in Spagna questa situazione, che ha visto la Spagna già avere un abbassamento del suo voto sul debito, già beccarsi il peggior PIL dal 1970, da quando esiste la serie statistica, è tutta attribuibile al calo, al crollo del settore immobiliare, o c'è dell'altro? Perché si parla di Spagna sempre per dire che i prezzi delle case sono crollati e che il numero dei disoccupati è il più alto in percentuale in Europa. Michele? Ma direi che il settore immobiliare ha una parte, diciamo, preponderante, perché creava lavoro, perché si creavano 1 milione di case all'anno, cioè si è creata questa bolla speculativa per cui è senz'altro il detonante che ha fatto scoppiare così l'economia del paese, il modello spagnolo. C'è dell'altro, sì, c'è dell'altro, perché anche il turismo, che era un altro pilastro importante, sta andando male. C'è dell'altro, sì, perché il settore dell'automobili, ricordiamo che la Spagna è il terzo produttore europeo di auto, anche quello va malissimo. Per cui c'è il settore immobiliare, senz'altro il primo, però seguito subito dopo da turismo e da auto. In un paese in cui il tessuto delle piccole e medie imprese è relativo, e quindi un paese dove c'è un vuoto in questo momento. Un'ultima domanda, Michele. Si diceva prima delle iniziative di Gordon Brown in Gran Bretagna, che torna sui passi del vecchio Labour. Zapatero è sembrato un po' in difficoltà, come tutti i leader politici, ma in difficoltà anche quasi come programmatica nel gestire questa crisi. Lui si era occupato più di tematiche sociali. La variabile economica era più legata alla vecchia gestione, insomma, quella che ha contraddistinto il boom spagnolo negli ultimi 20 anni quasi ormai. Ma sai, lui ha tentato fino all'ultimo di tenere i conti pubblici virtuosi. Ricordiamo che la Spagna fino a un anno e mezzo fa aveva un surplus del 2%, un debito del 34%, insomma continuava a avere dei conti pubblici fantastici. Ha tentato di tenerlo fino all'ultimo, ha varato qualche misura, però indubbiamente è stata insufficiente. Sta tentando di correre ai ripari. È chiaro però che è un paese che dal punto di vista economico e di modello produttivo è da rifondare. Grazie sia a Nando Maisano da Londra e a Michele Cacatera da Madrid per averci aggiornato, visto che poi ci siamo molto concentrati in questi giorni sulla crisi in Italia, sui vari aspetti economico, della parte produttiva, del settore bancario, però c'è anche il resto dell'Europa, non per dire che valga il detto, ma al comune mezzo gaudio. E va bene così. Da Sebastiano Berisoni l'augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Valeria Berardi per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Focus Economia.